per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardare lo specchio dietro te, e poi entri in chiesa e preghi piano. Tanto pensi al mondo ormai per te così lontano, per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te, per te che metti i soldi e canta lui che dorme, aggiungi ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire, Dio morire, non so. Anche per te dare qualcosa che non ho. E così, e così, e così. Io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei fidato al vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Che di mattina svegli il tuo bambino un po', lo vesti e l'accompagni a scuola, il tuo lavoro vai. Per te che un errore ti è costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche per te vorrei morire, Dio morire, non so. Anche per te darei qualcosa che non ho. E così, così, e così. Io resto qui a dare i miei pensieri, a dare quel che ieri avevo fidato il vento, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì.